Today's Dhamma talk will be about one of the insight knowledges, namely the knowledge of the fast arising passing way of formations. Allora, il discorso di questa sera riguarderà una delle conoscenze dell'insight, e più precisamente quella che riguarda il veloce sorgere e svanire delle formazioni. And so, the reason for choosing this topic is that a number of our meditators here have experienced just this. Motivo di questa scelta è che alcuni dei meditanti qui presenti hanno avuto esperienza proprio di questo insight. Now, in this connection there's a nice Dhammapada verse, namely verse 113, which says, better than 100 years in the life of a person who does not perceive the arising and dissolving of the five aggregates. Quindi c'è un verso dell'Amapada a questo riguardo, il 113, che dice: ancor meglio di una vita di 100 anni una persona che non ha avuto esperienza di questo sorgere e svanire dei cinque aggregati. Is a day in the life of one who perceives the arising and dissolving of the five aggregates. Quindi meglio di questi 100 anni è un giorno nella vita di una persona che ha avuto questa esperienza del sorgere e svanire dei cinque aggregati. And so those five aggregates are the aggregate of materiality, the aggregate of feelings, of perceptions, of mental formations and of consciousness. I cinque aggregati sono quelli delle del fisico, insomma del corpo, quello delle sensazioni, delle percezioni, delle formazioni mentali e della coscienza. And so, this particular Dhammapada verse gives you a certain idea of the value of having attained this particular insight knowledge. Questo verso del Dhammapada vi dà un'idea del particolare valore che assume l'aver raggiunto questo particolare livello dell'insight, conoscenza dell'insight. And so, for those who do not know as yet, when we undertake this meditation practice, then the practice does not happen in a haphazard manner, but rather it unfolds in a pretty systematic manner. E per chi ancora non avesse familiarità con questa pratica, la pratica non accade in maniera così casuale, ma piuttosto si svolge in una maniera più sistematica, si sviluppa in modo più sistematico. So a meditator then gradually passes through the first insight knowledge, which then is followed by the second, and by yet a third insight knowledge, and then the fourth, and so on and so forth. E quindi il meditante parte con un'esperienza della prima conoscenza dell'insight, poi passa alla seconda, poi alla terza, alla quarta, e così via di seguito. Gaining an insight knowledge means that one gains a particular form of intuitive wisdom. Quindi raggiungere una conoscenza dell'insight significa che una persona ottiene una dose, di saggezza intuitiva. And so this thing will shape our way, or will reshape our way of seeing formations and relating to them. E questo rimodellerà il nostro modo di vedere le formazioni, il nostro modo di relazionarci ad esse. Now, the Pali words here for this particular insight knowledge is udayabhya jnana. E la parola Pali per questa particolare conoscenza dell'insight è udayabhya jnana. And so, so jnana is your the insight knowledge, and so, then udayabhya consists of two major components. Allora, jnana significa conoscenza dell'insight e udeya beya è composta da due parti principali. And those two principal parts are ud and aya, that's being one, and the other one being bya and aya. Allora, le due parti sono la prima ud e aya, è una, e l'altra è the second is aya, aya. The second is aya. Yeah. And so that aya means to go. It's a it's a form of the verb I, or the root e, which means to go. And and ud means to rise up in an upward direction. Quindi aya significa andare e ud, quindi il prefisso, significa andare su in maniera verticale, verso l'alto. And certainly then, as for the second compound, we have bya and aya. The aya is the same as before. Ecco, quindi bya, aya è il secondo composto, la seconda parte, diciamo. Mm. Quindi aya è lo stesso della prima parte, quindi andare. Mm-hmm. And bya is a form of the prefix vi, which means asunder, which means destruction, separation. Invece bya. Quindi il prefisso bya deriva dalla radice vi, mi sembra. Comunque significa dissolversi. It's a destruction, separation. La separazione. And also down. E anche implica una direzione verso il basso. So something that is going down. Quindi qualcosa che va verso il basso. So when we put these parts together, then it becomes an increase and a decrease, a rise and fall. E quindi quando mettiamo insieme queste due parti diventa un aumento e una diminuzione, oppure un sorgere e un cadere. Or, as we say, the knowledge of the arising and passing away. Oppure, come diciamo normalmente, è il sorgere e lo svanire. Now, this particular, the inside knowledge marks a rather rewarding phase in one's meditation practice. Questo insight indica una fase molto gratificante nella pratica di una persona. And so when one is reaching this particular phase in the practice and experiencing it, then one will feel very much inspired to go on. Quando uno raggiunge questa fase nella pratica, quando fa questa esperienza, si sente molto ispirato nel voler continuare. And so maybe to add one general note, that in our meditation practice there will be ups and there will also be downs, and there will be times when the practice is difficult and there will be other times when the practice is going very well. E nella nostra pratica ci saranno sempre dei momenti su e dei momenti giù, degli alti e dei bassi. Ci saranno dei momenti in cui la pratica attraverserà dei momenti difficili e altre fasi in cui invece andrà bene. And so simply know that in your meditation practice, it's not certainly going to be smooth sailing all the time, but sometimes you will have to face certain difficulties, but those will not going to last forever, and so it's an up and down affair. Quindi sappiate che durante la pratica non ci sarà, la navigazione non sarà sempre tranquilla, e quindi ci saranno sempre dei momenti difficili, ma questi seguiranno dei momenti invece più facili, quindi è sempre una questione di alti e bassi. But overall, the development will be a progressive development. Ma in generale comunque lo sviluppo sarà uno sviluppo progressivo. No. This particular insight knowledge, when we analyze it carefully, we can say consists of two parts. The first or two phases, the first phase being the tender phase and the second phase being the mature phase. Quindi quando analizziamo questo particolare insight possiamo dire che consiste in due parti, due fasi. La prima è quella tenera e la seconda è quella matura. And the tender phase is that phase during which the ten imperfections of insight tend to arise, so a series of mostly wholesome mental states. Quindi nella prima fase, quella tenera, questa è la fase in cui sorgono le 10 imperfezioni dell'insight e queste sono generalmente degli stati mentali salutari. And then the mature phase is one where the mind is no longer under the influence of those certain imperfections. Nella fase matura invece la mente non è più sotto l'influenza di queste 10 imperfezioni. And so that then represents the stronger phase of this particular insight knowledge. E quindi questa rappresenta la fase più forte di questo particolare conoscenza dell'insight. Now, what happens is that during the third insight knowledge, meditators usually experience quite a number of difficulties in the form of difficult physical formations, lots of pains and aches, and then also difficult mental states. Quello che succede è che nella fase precedente, nell'insight precedente, il terzo, i meditanti fanno molte esperienze difficili, sia a livello di dolori fisici, sia a livello di stati mentali. And then, through continuous mindfulness and good perseverance, eventually one manages to overcome these difficulties, and then fortunately things turn around, and then a meditator might be experiencing a number of different light phenomena, illumination, and might also experience a form of keen knowledge of joy, and joy, then tranquility, happiness, etc. Quindi attraverso una consapevolezza continua e una certa perseveranza queste difficoltà vengono superate e il meditante potrà avere delle particolari esperienze che possono essere per esempio di luce, cosiddetta l'illuminazione, che non è ancora quella definitiva. E oltre a questo anche degli stati di gioia, di calma, di felicità, eccetera. And now, when we go on in our, or once that we've experienced all the imperfections of insight, then the mind becomes rather sharp. Quando abbiamo attraversato tutte queste imperfezioni dell'insight, la mente diventa piuttosto acuta. And sharp and also pretty much tuned into the present moment. E anche molto sintonizzata nel momento presente. And it is in this connection that we need to pay attention to the time factor. Ed è proprio qui che dobbiamo prestare particolare attenzione al fattore tempo. Now, during the earlier insight knowledge, namely the third insight knowledge, a meditator would typically experience the arising of one object, and then the object is lasting, the occurrence of it, and the object is there, it's lasting, and then it's dissolution. Quindi nella fase precedente, nell'insight precedente, il terzo, allora una esperienza tipica è quella di vedere l'oggetto che sorge, e poi rimane per un certo tempo e poi c'è la sua dissoluzione. Whereas in the case of the fourth insight knowledge, objects are happening so quickly, and there's just a very, their very brief arising, and suddenly immediately followed by their fast dissolution. Invece nel quarto insight, questo sorgere dell'oggetto avviene molto molto velocemente. Allora c'è solo il sorgere dell'oggetto, poi immediatamente la sua dissoluzione. And certainly with this, certainly then we're much more tuned into the present moment. E quindi in questo modo noi siamo molto più sintonizzati con il momento presente. Now, the Visuddhimagga is asking an interesting question, namely, after having experienced the tender face of the fourth insight knowledge, namely with all the imperfections, why does one then have to go go through this additional mature face? What's the reason behind it? Allora, il Visuddhimagga pone una questione interessante, cioè se uno attraversa già questa fase tenera, diciamo, del quarto insight con tutte le 10 imperfezioni, perché è necessaria anche la fase di maturità di questo particolare insight? Che bisogno c'è? And do you have any idea about this? Avete qualche idea voi di questo? This is not an easy question. Non è una domanda facile. Well, the answer is certainly as follows. During the third insight knowledge, for the first time, we come to experience the three universal characteristics of anicca, dukkha, and anatta, so of impermanence, of unsatisfactoriness, and of known self. Nel terzo insight noi sperimentiamo per la prima volta chiaramente le tre caratteristiche universali di anicca, dukkha e anatta. And so the meditators get pretty clear about them. E i meditanti hanno un'idea abbastanza chiara di esse, quindi l'impermanenza, l'insoddisfazione e il non sé. And so then, however, when one experiences the tender face of the fourth insight knowledge, and so with all these wonderful mental states arising, and the mind having a certain tendency to hold on to these experiences, then with this, our understanding of anicca, dukkha, and anatta somewhat gets diluted. Però nella fase tenera del quarto insight, con tutte queste esperienze piacevoli, allora la nostra comprensione di anicca, dukkha, anatta viene in qualche modo diluita. So, anicca, dukkha, anatta at that point are not that predominant anymore. E quindi anicca, dukkha, anatta non sono più così predominanti. Yes, ho dimenticato di dire che c'è una sorta di attaccamento a queste sensazioni piacevoli. Fourth. And so, the reason is so, the reason for this is that the understanding of anicca, dukkha, and anatta is reduced or weakened owing to the imperfections. E il motivo di ciò è che la comprensione di anicca, dukkha e anatta è indebolita proprio a causa di queste imperfezioni. And it is once one has overcome the 10 imperfections, one is no longer a slave to them. Then the mind is quite free again, and suddenly then it rediscovers, so to speak, those three universal characteristics. Quindi quando vengono superate queste 10 imperfezioni, la mente è come se si fosse liberata, non è più schiava, e allora c'è una sorta di riscoperta di queste tre caratteristiche universali. Now, during this certain particular insight knowledge, two aspects are predominant, namely the arising of an object and its passing away. But the middle section is not that predominant. Allora, in questa particolare fase ci sono due elementi fondamentali e sono il fatto che si osserva il sorgere dell'oggetto e poi il suo svanire. La parte centrale non è più così predominante. So in the third insight knowledge, the middle portion tended to last for a while. Here now, the fourth insight knowledge, it's just a moment. nella terza conoscenza dell'insai questa parte centrale sembrava durare un certo tempo, invece qui nel quarto insight è solo un attimo. No, as human beings, you know, we tend to have all sorts of wrong views, and so, then we may at times we may think that certain formations are eternal, ever lasting, and when we see formations as dissolving, then this wrong notion gets dispelled. Come esseri umani abbiamo molte opinioni errate. Una di queste è il credere che le formazioni siano eterne, che durino per sempre. Allora, vedendo come invece rapidamente sorgono e svaniscono, allora questa nozione sbagliata viene eliminata. And then again, there are those who hold on to the belief in nihilism, and they think there is only death, only destruction, and this particular wrong view gets dispelled through seeing formations arising. E anche la, rispetto a, a coloro che hanno questa nozione forte, questo attaccamento all'idea del nichilismo, cioè che vedono sempre la fine o la morte dei fenomeni, attraverso queste esperienze invece si accorgono che gli oggetti continuamente nascono e sorgono ripetutamente. Now, when we experience this particular insight, knowledge, then, as mentioned earlier on, the three universal characteristics will play an important role, and or they tend to become quite predominant again, and then we may understand the characteristic of impermanence, of unsatisfactoriness, and of non-self a bit better. E quindi, come abbiamo detto, in questo quarto insight di nuovo si approfondisce la conoscenza delle tre caratteristiche universali, dell'impermanenza, insoddisfazione e non sé, e vengono comprese meglio. And so, the characteristic of impermanence is the mode of or seeing the arising and passing away formations. Quindi la caratteristica dell'impermanenza si coglie osservando questo rapido sorgere e svanire delle formazioni. And certainly then the characteristic of suffering is the mode of being continually oppressed by that same arising and passing of formations. E quindi la caratteristica della sofferenza, quindi di dukkha, è questo fatto di essere continuamente oppressi proprio per il fatto che le formazioni continuamente sorgono e passano. Let's say you experience some pleasant formation, and then you want to take a closer look at it, you want to observe it nicely, and then it's disappointing you because it keeps changing all the time. And then you want to observe it now nicely, and it's changing again. Again, you want to take a closer look at it, it's changed again. And so this continual change indeed is a form of suffering. E quindi ipotizziamo che ci sia una sensazione piacevole, uno vuole conoscerla meglio, quindi si avvicina per osservarla e improvvisamente se ne va o cambia, e poi ne sorge un'altra, uno di nuovo si avvicina e cambia nuovamente. Questo continuo cambiamento è sicuramente una fonte di sofferenza. And the characteristic of non-self of anatta is that it is not under the sway of, or we cannot exercise our power. E la caratteristica di anatta deriva dal fatto che noi non riusciamo a esercitare il nostro potere sulle formazioni. Now, one can see these three universal characteristics within the rising movement itself, within the falling movement itself, one can discover those with good practice also in other predominant bodily formations and also with regard to mental formations. Allora, questo sorgere e svanire delle sensazioni, delle formazioni possono essere viste sia nell'alzarsi dell'addome sia nell'abbassarsi, oppure anche, con una certa pratica ed esperienza, in altre sensazioni del corpo o in degli stati mentali. And certainly it's important to gain this inside knowledge correctly and to see this arising, this quick arising and passing of formations over and over and over again. Quindi è importante acquisire questa familiarità e osservare rapidamente il sorgere e svanire degli oggetti ripetutamente. Mi correggo, prima ho detto, ho sbagliato, quello che si osserva nell'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome e poi nelle altre formazioni sono le tre caratteristiche universali. Now, what's, I've said it's good to experience these the fast arising and passing of formations over and over again. And however, when one first experiences this particular insight knowledge, first goes through it, then it may be just a couple of times that one clearly has this experience. However, later on, one might come and experience this particular insight knowledge again, and then it might last for a little bit longer. Allora, anche se è importante avere ripetutamente questa esperienza del sorgere e svanire degli oggetti, quando però uno ne fa esperienza per la prima volta, di solito capita solo brevemente, solo in una o due occasioni, però successivamente potrebbe ripresentarsi l'occasione e quindi in questo caso l'esperienza ovviamente viene ripetuta e può durare anche più a lungo. And so, this certain particular characteristic of seeing formations in a certain light, namely in the light of their fast arising and passing away, for instance, may also be discovered in the seeing process itself. Allora, questo vedere le formazioni come alla luce di questa loro caratteristica del sorgere e svanire può essere vista anche nel processo visivo stesso. Now, usually we assume that when we look at an object that it is quite permanent, quite continuous. Di solito noi supponiamo che quando osserviamo un oggetto è permanente, cioè c'è una continuità. And certainly when we reach this particular insight knowledge and the mind is quite sharp, then we might find that seeing a particular object or that the seeing process actually is not a continuous process, but rather a process of many moments of seeing after one after another. E quando raggiungiamo questo particolare insight, allora la nostra osservazione è molto acuta e potremo scoprire che il processo visivo non è un processo continuo, ma piuttosto è costituito da tanti piccoli momenti di visione, diciamo. Yeah. And certainly this then is very similar to a movie, the way a movie works. È molto simile a come funziona un film. So, when we watch a movie under normal circumstances, it seems like one continuous story. Quando osserviamo guardiamo un film in circostanze normali, sembra una storia continua. However, when we play that movie at slower speed, then the individual frames will show up. Tuttavia, se noi facciamo andare quel film ad una velocità più bassa, allora lo vedremo come è formato da tanti piccoli fotogrammi. And one frame after another then leads to the impression of a continuous line there. E quindi un fotogramma dopo l'altra ci dà questa impressione di una, come dire, di una linea continua. So the same thing happens in the seeing process where we then no longer see an object in a continuous manner, but the seeing process takes place in frames. So and each frame comes and goes, comes and goes. E quindi la stessa cosa accade nel processo visivo, che noi non vediamo più l'oggetto così in maniera continuativa, ma piuttosto frammentato e suddiviso in questi piccoli fotogrammi, e ogni fotogramma sorge e svanisce, sorge e svanisce. And not too long ago during this retreat here itself, one meditator was looking at some incandescent light and seeing how the light that under normal circumstances seems rather continuous, he saw it as coming, going, coming, going, coming, going extremely quickly. E un meditante che era proprio qui a questo ritiro ha riferito in un colloquio che osservando una luce che normalmente sembrava continua, una luce incandescente, invece proprio perché si trovava in questa particolare fase della pratica gli appariva come una luce che andava e veniva, andava a intermittenza. And so that actually corresponds to the physical nature of electricity. E questo effettivamente corrisponde alla natura fisica dell'elettricità. Now, when one experiences this particular fourth inside knowledge, as you mentioned earlier on, the mind is pretty sharp. It is sharp, it is quick, and it is keen, and as soon as an object arrives, the mind is right there, and it doesn't take much aiming. Quite naturally, the mind will fall onto the respective object. Allora, in questo particolare insight, la mente è molto acuta ed è molto veloce, e non richiederà molto sforzo il fatto di andare direttamente sull'oggetto, non richiederà tanta mira, la mente è immediatamente sull'oggetto. And so during the earlier phase of our meditation practice, we have to, let's say an object comes up, and so then we have to make the mental effort to properly aim the mind, the observing mind at the object. If we don't do this, we might miss the object. E nelle fasi precedenti noi dovevamo fare questo sforzo mentale di mirare la mente e andare sull'oggetto, altrimenti se non l'avessimo fatto in maniera appropriata allora avremmo potuto perdere l'oggetto stesso. And so, so this aiming is quite necessary, very necessary during the early phase of the practice. And then in the mature phase of the fourth insight knowledge, aiming is not necessary anymore. The mind is so well trained by that point that it automatically will hit the object. Quindi questo mirare la mente, direzionare la mente sull'oggetto è molto importante nelle prime fasi della pratica, ma quando si raggiunge questa fase matura del quarto insight non è più necessario, perché la mente è talmente ben allenata, ben addestrata, che automaticamente andrà sull'oggetto. And so, the venerable Nyasaru Pandita of Burma, who compares this to target practice. At first, the person who is doing target practice needs to aim very carefully and then shoot. But later on, with getting more and more skilled, then the object appears and suddenly right away he or she will shoot and suddenly hit the object. Viene Upandita paragonava questa abilità all'allenamento nel tiro a segno. Inizialmente bisognerà continuamente mirare l'obiettivo, il bersaglio, scusate, però con la pratica, con l'allenamento, la persona sarà sempre più abile a colpire il bersaglio senza sforzarsi troppo. Now, another particular feature during this phase in the practice is that an object arises, and simultaneously with it, the observing mind is there. So they go together. Object and mind, they go together, together in pairs. Un'altra caratteristica di questa fase è che appena l'oggetto sorge, simultaneamente la mente lo osserva, e quindi sia l'oggetto che la mente viaggiano in coppia. And so during this particular phase also, the wandering mind tends to be less because the mind is so sharp, the mindfulness is so strong and sharp. E in questa fase anche la mente che divaga si indebolisce, proprio perché la consapevolezza è così, così forte, così acuta. Now, another interesting and very practical aspect is during this phase of one's meditation, objects usually tend to arise in a linear fashion. So, an object arises, and only after it has certainly been seen as passing away will the next object arise. And it's not that objects are overlapping. Una cosa interessante di questa fase, e anche una cosa pratica, è che il sorgere degli oggetti avviene in modo lineare. Quindi l'oggetto sorge e poi finisce, lo si vede finire prima che ne sorga uno successivo. Quindi non c'è un accavallamento degli oggetti, ma sono in successione. And also in this certain connection, objects they intend to arise in one spot and disappear in the same spot. And not as certain previously, an object arises in one spot and then maybe spreads out over a larger area, maybe even moves around and disappears in a different spot. E collegato a questo, si nota che un oggetto sorge in un determinato punto e sparisce in quello stesso punto, mentre invece precedentemente si poteva osservare il sorgere dell'oggetto, magari il diffondersi in una certa zona e addirittura il fatto che sparisse in un'altra zona del corpo. And so, during this phase in the practice, also a fair amount of clarity of mind tends to be there, and that has to do with the presence of faith. E un'altra caratteristica di questa fase è che c'è una certa chiarezza nella mente, e questo dipende dal fatto che c'è una certa dose di fede. And so, because of all of these experiences and one's certain good ability to label, observe and know objects, this phase is being very much well praised. E proprio perché per via di tutte queste esperienze che avvengono in questa particolare insight, e per la capacità che si ha di etichettare l'oggetto, osservarlo e conoscerlo bene, allora questa particolare fase viene molto lodata. And so, in this connection, the Buddha, in the connection with this fourth insight knowledge, the Buddha has certainly given another Dhammapada verse. Actually, he's given quite a few about relating to the fourth insight knowledge, and it goes as follows. E il Buddha ha dato diversi, cioè ci sono diversi versi nel Dhammapada che si riferiscono a questa particolare fase, a questo particolare insight, e questo che segue è uno di quelli. And the bhikkhu, or the meditator, who goes into the seclusion to meditate. Quindi il bhikkhu, cioè il monaco, o il meditante, che si isola per meditare. Whose mind is tranquil, who clearly perceives the Dhamma. La cui mente è tranquilla e che chiaramente percepisce il Dhamma. Experiences a joy which transcends that of ordinary human beings. Fa esperienza di una gioia che trascende quella degli esseri ordinari, esseri umani ordinari. And so, when your mind is relatively free from unwholesome mental states, from mental defilements, when your mindfulness is sharp and quick, and you are succeeding in the meditation practice, another feature that I haven't even mentioned so far is that usually meditators all of a sudden manage to sit for much longer than usual. So maybe they can sit for 2 hours instead of the normal 1 hour. Allora, quando si sono superati gli stati mentali non salutari o i difetti mentali, quando la consapevolezza è diventata acuta e veloce, allora può succedere che un meditante si sieda per dei periodi più lunghi, cioè riesce a stare seduto anche 2 ore. So, in a phase like this, then quite naturally, joy arises in the practice, and suddenly there will be a fair amount of tranquility and also happiness. Quindi in una situazione di questo genere è molto facile che sorga della gioia unita alla tranquillità e alla felicità. And so, those meditators are easy to spot, they happily smile. E sono molto facili da individuare questi meditanti perché hanno un sorriso sulle labbra. And so, this joy which transcends that of ordinary men and women, this is a joy that is connected with the Dhamma. Questa gioia che trascende quella degli esseri ordinari è una gioia che è collegata con il Dhamma. And certainly this joy is not based on indulging in any particular sense gratification or so. Ed è una gioia che non sense pleasure, non è basata sul come dire, sul godere di particolari piaceri sensoriali. Now, another feature that I haven't really highlighted is the fact that suddenly the mind becomes rather, the operating speed of the mind becomes rather fast, for some exceptionally fast. Un'altra cosa che non ho ancora sottolineato è il fatto che in questa fase la, come dire, la velocità di processare della mente, di operare della mente, diventa molto molto veloce, per alcuni proprio particolarmente rapida. And so this thing is quite different from our normal, or from the normal working speed or processing speed of the mind. E quindi questa è molto diversa dalla nostra normale velocità di lavoro della mente. And so when you elaborazione, scusate. And so previously, the mind tended to work rather slowly. Precedentemente la mente aveva questa tendenza a lavorare in maniera piuttosto lenta. So an object arises slowly, and then slowly one observes the occurrence of it, or the arising of it, and then it lasts for a while, slowly one observes this, and then slowly it disappears, and slowly then one knows this. Quindi lentamente sorge l'oggetto, lentamente una lo osserva, lentamente l'oggetto si sviluppa o rimane per un po' di tempo, lentamente se ne va. No, and the fourth insight knowledge, it's quite a different story. It's like driving down your autostrada here in Italy at high speed, let's say 200 kilometers per hour. Invece in questo quarto, questa conoscenza dell'insight, la storia cambia, è molto diversa, è come guidare in un'autostrada ai 200 all'ora. And suddenly, so when you see this sudden change from first a rather slow operational or operating speed of the mind to a rather quick, a rather swift operating speed, you realize, wow, the mind has quite some potential. Allora, quando uno passa da questa velocità operativa della mente piuttosto lenta inizialmente a questa invece molto più veloce, allora uno dice accidenti, la mia mente ha del potenziale. And so seeing that potential of the mind, you will then want to continue to develop it, to develop those wonderful qualities. Quindi vedendo questo potenziale della mente, viene voglia di svilupparla ulteriormente, di sviluppare quelle qualità. Now let me see. Now during this phase in the meditation practice, also the objects lose much of their compactness. In questa fase gli oggetti perdono molto della loro compattezza. And so rather than seeing one object tend to be rather solid or compact, one sees it as certain, consisting of many tiny little bits and pieces. Piuttosto che vedere un oggetto solido e compatto, uno lo vede come composto di tante piccole parti. And those certain small parts then are seen as coming and going. E quelle piccole parti si vedono sorgere e svanire. Now, also in this certain connection, there is certain seeing the destruction or the breaking up of the compactness as a continuity. E anche in questo contesto si vede il, come dire, il frantumarsi della compattezza come continuità. And this is an aspect we haven't highlighted so far. And what it means in the case of one rising movement is that one rising movement, for the most part, is seen as one continuous movement. And then, at this particular phase in the practice, one might see that same rising movement consisting of many smaller rising movements, which each and every one of them quickly coming, going, coming, going, coming, going. Allora, per esempio, prendendo l'alzarsi dell'addome, il movimento dell'alzarsi dell'addome, inizialmente uno potrebbe vederlo come un movimento continuo e compatto in un certo senso. Invece adesso si comincia a vedere come composto di tante piccole parti, tanti piccoli frammenti, e ognuna di queste parti al suo interno è composto da un sorgere e svanire, eccetera, eccetera. And so already the beginning meditators, so at the beginning of the retreat, at first one sees the rising and falling movement as one continuous movement, and then with a little bit of practice one might discover that the rising and falling is more wave-like. Ma già all'inizio di un ritiro un meditante potrebbe scoprire solo dopo un po' di con un po' di attenzione il fatto che il movimento di alzarsi e abbassarsi dell'addome, che inizialmente sembrava un movimento continuo, in realtà ha un andamento a onde. And when one then pursues that particular aspect, one sooner or later will see how one rising movement breaks up into various segments. E quindi se uno continua in quella direzione vedrà come il solo alzarsi dell'addome è suddiviso in tanti frammenti. Now, in terms of those segments and the numbers of the segments, that number of the segments may change. Ecco, per quanto riguarda questi segmenti, la quantità di questi segmenti, allora il numero potrebbe cambiare. And there could be as little as maybe 2-3 segments per rising movement or falling movement, and there could be as many as 10-15 segments in one rising or falling movement. Quindi potrebbero essercene solo 2 o 3 all'interno di un movimento dell'alzarsi o dell'abbassarsi, oppure potrebbero arrivare a 15 o 20 all'interno di un movimento. Right. And so there's no need to count the number of segments, but to have at least a rough idea whether you're experiencing very few segments, or whether you're experiencing an average number of segments, or maybe quite a number. Quindi non è necessario star lì a contare quanti segmenti si sentono, però almeno avere un'idea se sono due o tre, oppure se sono di più. Now, there, the text, apparently the commentary, speaks of another form of compactness, namely compactness as a mass. I commentari parlano di un'altra forma di compattezza, ovvero la compattezza come massa. Now, this particular notion applies to maybe an experience of a solid compact pain. Questo si riferisce, per esempio, ad un'esperienza di un dolore solido compatto. And so we observe it, and nothing much happens. Noi lo osserviamo e non succede nulla di particolare. But then, if we try to, in line with mindfulness, we try to penetrate this pain, and we try to go deeper, and we try to see more. Then sooner or later, we will find how this pain in the end is actually not all that compact, but rather breaking up into sometimes few, sometimes many tiny little particles. Ma se con la consapevolezza noi osserviamo più in profondità questo dolore, riusciamo a penetrarlo, allora vedremo come perde la sua compattezza e in realtà è composto di tante particelle, tante parti più piccole. So, if you take an iron, let's say a small iron ball, and suddenly you touch it, you look at it, it seems pretty compact. Allora, se prendete una pallina di ferro, la prendete in mano, la toccate, sembra piuttosto compatta. And then, if you put it underneath an ordinary microscope, it will still be pretty compact. E anche se la mettete sotto un microscopio ordinario, continuerà a sembrare abbastanza compatta. But then, if you put the metal underneath an atomic microscope, then what will you see? Ma se lo mettete sotto un microscopio atomico, cosa vedrete? The atoms. Pardon? The atoms. You will see the atoms and you will see lots of space in between. Allora, si vedranno gli atomi e si vedrà tanto spazio tra un atomo e l'altro. And certainly then, that compactness is certainly not that predominant anymore. Quindi quella compattezza non è più così predominante. Now, when in our meditation practice we observe solid compact pain deeply, then it may very well happen that all of a sudden it explodes into many bits and pieces. Allora, cosa può succedere nella nostra meditazione è che quando osserviamo questo dolore solido e compatto, allora potrebbe essere che improvvisamente come se esplodesse in tante piccole parti. And so, that then means the absence of the compactness as a mass. E allora quello indica l'assenza di compattezza come massa. And so, this is an important experience on our path of Vipassana meditation. E questa è un'esperienza importante nel nostro sentiero di meditazione di Vipassana. And so, keep this in mind also for mental states that seem rather compact at certain times. E tenetelo presente anche riguardo gli stati mentali che a volte sembrano molto compatti. Now, once you know that certain mental state that at first seems pretty compact eventually breaks up and disintegrates, then such a compact mental state in the future is not that fearsome or fear-inducing anymore. Quando vedete che quegli stati mentali che inizialmente sembravano così compatti poi si disintegrano, allora vi rendete conto che quando sorgerà nuovamente questo stato mentale, non vi porterà più quella paura che magari inizialmente aveva. And so, you know, the third certain form of compactness that is mentioned in the text is compactness as a function, and you know, this is kichagana in Dhampani, and this is slightly more difficult to understand. Il terzo tipo di compattezza, così come viene indicata nei testi, è quella riferita alla funzione, e questo è un pochino più difficile da comprendere. And so, what is meant, and this you may not necessarily experience as yet. E allora, questo può essere un'esperienza che non avete ancora avuto. And so what this means is, after quite some practice, you get a certain understanding and also feeling for how the practice unfolds. What usually tends to happen at this phase, and then next phase, and then the next phase. So you can kind of predict what might happen next. Allora, si arriva a un certo punto nella pratica in cui uno più o meno riesce a capire bene come si sviluppa la pratica, come si svolge la pratica. Quindi riconoscere che c'è una certa fase, poi seguita da una successiva e via di seguito. Quindi diventa un po' più prevedibile, le esperienze diventano più prevedibili. And so then you start suddenly becoming somewhat bold, and you start making predictions for yourself what might happen next. And so this then is called compactness as a function. Quindi uno diventa un po' intraprendente e comincia a fare delle previsioni rispetto a quello che potrà provare. E allora questo è ciò che si intende per compattezza come funzione. So, at certain inside knowledge, this or that experience is likely to happen. At another place, again, something else will happen. Quindi, per esempio, poter dire in un certo insight succederà questo, in un altro insight succederà quest'altro. And it seems like 100% true or applicable. Pare che questo sia vero al 100%. So that's your compactness as a function. E quindi questa è la compattezza come funzione. However, there's a certain point in the meditation practice where everything gets turned upside down. Tuttavia c'è un punto nella pratica di meditazione dove tutto viene capovolto. And so this is kind of like the chaos button on certain computers. È un po' come il pulsante del caos in determinati computer. So long time ago, I read in some newspaper about some spy planes. I think it was even an American spy plane that was shot down or forced to land. Yes, exactly, forced to land on some island in the Pacific, and then that spy plane, of course, had lots and lots of computers on board, and taking photos of the area underneath. Allora, ho letto qualche tempo fa sul giornale di un aereo spia che è stato costretto ad atterrare su un'isola del Pacifico. Ovviamente su questo aereo c'era molta attrezzatura, c'erano molti computer o macchine fotografiche per poter riprendere dall'alto. And so, as a way to, as a, just in case of maybe the capture of this plane or so, apparently these computers were equipped with such a chaos button. So, not wanting the opposite country or army to get access to all the spying equipment and data and whatnot, so the crew simply destroyed all the materials. Quindi pare che questo equipaggiamento su questo aereo, insomma, questi computer avessero, fossero forniti di un bottone, cosiddetto bottone del caos, in modo che l'esercito nemico non potesse impossessarsi dei dati o delle informazioni ottenute in queste ricognizioni spia, diciamo. E quindi l'equipaggiamento dell'aereo non doveva fare altro che schiacciare questo bottone per mandare in tilt tutti i computer. So in the practice there's a point when you think you can predict your rising and falling, and then all of a sudden nothing happens according to your prediction. And your rising at first is maybe a little bit slow, then all of a sudden it's quick, then it's soft, then it's hard, then it's tighter, then it's relaxed, and so on and so forth. Quindi avviene a un certo punto della pratica che uno pensa di poter prevedere, per esempio, proprio alzarsi e abbassarsi dell'addome, e invece succede che inizialmente, non so, parte duro, poi diventa morbido, poi va veloce, poi si ferma e così via. So that then would be a case of how that compactness as a function then breaks up. E quindi questo è un esempio di come questa compattezza riguardo alla funzione si frantuma, ecco, sì. But please don't think that this experience will come up in your practice within the next 3 days. Ma per favore non pensate che questa esperienza possa verificarsi nella vostra pratica nei prossimi 3 giorni. Most likely not. Perché molto probabilmente non succederà. But nonetheless, keep this particular point in the back of your mind, and then if one day you do a longer retreat, then you might experience just this. Però tenetelo a mente, perché se in futuro farete dei ritiri più lunghi potrebbe anche succedervi. Now, the fourth kind of compactness is compactness as an object. La quarta forma di compattezza è la compattezza come oggetto. And so, when we observe some object, let's say some hardness, an area of hardness, then it seems to us that this hardness is just hardness inside object, or the whole thing is in the core there's hardness, and at the periphery there's also hardness. Allora, immaginiamo di fare esperienza di un dolore o di una durezza, per esempio. Allora abbiamo l'impressione che questo oggetto sia duro dappertutto, cioè sia all'interno, nel suo nucleo, sia nella periferia, insomma, che sia completamente duro. And so then we may also have a rather clear idea of the outline or the contour of that object. So we know exactly how far it is going. Potremmo anche avere un'idea abbastanza chiara dei confini, dei bordi di questo oggetto, per esempio. Sappiamo che dimensioni ha, come si estende. And then, when we observe really, really carefully, we might find how the contour is breaking up. Quindi, quando osserviamo più attentamente, potremmo accorgerci come i contorni si spezzano, si frantumano. And then we might also find that the periphery that seemed so hard turns maybe into softness. Vediamo che la parte esterna, la periferia, diciamo, che sembrava così dura, si trasforma in morbidezza. And at the surface, there's still some hardness, however in the center it's quite soft. Oppure che la superficie è ancora abbastanza dura, però all'interno è morbido. Or sometimes it could be the other way around. O potrebbe essere il contrario. So when we see an object in these ways, this compactness as an object also breaks up. Quando vediamo gli oggetti in questo modo, allora questa compattezza come oggetto anche viene a frantumarsi. Now, the texts speak of several illustrations that apply to this particular phase in the practice, and one is like What is it like a lightning flash? So a lightning flash is an event that is not lasting for very long. It just starts and next moment it's over. And sorry, these are examples for the fourth, the fourth insight knowledge. Quindi i testi parlano di, danno degli esempi, delle, propongono delle metafore, diciamo, riguardo a questa quarta conoscenza dell'insight. Una è quella del, di un lampo, perché il lampo come dire, avviene in un tempo molto molto breve. Or another illustration given by the Buddha is that objects are like bubbles, they form and they pop. Un altro paragone offerto dal Buddha è che gli oggetti diventano, sono come delle bolle, come, sì, delle bolle che si formano e scoppiano. Or like a line drawn on the surface of water, it happens and next moment it's gone. Oppure come una riga tracciata sulla superficie dell'acqua, nel momento in cui la si traccia poi è sparita. Or like dew drops at sunrise, well, the dew drops are there, the sun is rising, and with the warmth, those dew drops then oppure come gocce di rugiada al sorgere del sole, quando il calore del sole batte sulla, sulla rugiada, viene, cioè evapora praticamente la goccia. Also the words has not been mentioned yet during the talk is that meditators tend to be quite interested in what is going on in their own practice. Un'altra cosa che non è ancora stato detto è che in questa fase i meditanti diventano molto interessati a ciò che sta avvenendo nella loro pratica. And also one aspect that I haven't mentioned so far is that the previous occurrence of an object is one thing and the succeeding occurrence is another thing. So those are not necessarily the same. So in this so you have one object arising, next moment passing away, and then some other object arising which is totally different. E un'altra cosa che accade in questa fase è che c'è una, un sorgere di un oggetto e il suo svanire e poi quello successivo, e questi due momenti sono distinti, sono due oggetti molto separati. And so, yet another interesting point is that our sitting posture during this particular phase tends to be upright and also relaxed. E un'altra caratteristica di questa fase è che la posizione seduta tende a essere molto dritta e rilassata. And so, in the text there's still one more clarification as for the process of the arising of an object. So it's not that certainly in the body or in the mind one is getting ready, or that next object to arise is getting ready, is preparing itself to arise, but rather it arises and then there's no preparation for the dissolution. Dissolution just takes place. Quindi un'altra caratteristica indicata dai testi è che questo sorgere degli oggetti fisici o mentali avviene in un modo molto rapido, cioè senza una preparazione. Quindi non è che l'oggetto si prepara a sorgere, poi si prepara a dissolversi. Avviene così in maniera molto spontanea. And in the Burmese language, this is very nicely expressed as ku pie. And ku is short for now, a ku, and pie means to arise. So arising now, and ku pie is dissolution, disappearing now. E questo viene espresso molto bene nella lingua birmana, quindi ku pie, ku vuol dire ku pie. Sorry. Non ci provo neanche, ripeto. Comunque significa, il primo termine significa adesso, quindi sorge adesso, e l'altro svanisce. Coupie. E quindi, coupie. Ecco, quindi questo, questa parola, questa espressione dà molto bene l'idea di questo sorgere e svanire rapido. And so, and then to come to an end, a meditator who has reached this particular insight knowledge, so the fourth insight knowledge in his or her practice, is said, if he or she practices under a skillful teacher, sooner or later, the person will gain the path of stream entry. In this life. Allora, sì, l'ultima cosa è che si dice che chi, il meditante, la persona che ha raggiunto questa fase nella propria pratica, se viene seguito da un insegnante abile, otterrà in questa vita almeno il primo stadio del sentiero, quello di colui o colei che entra nella corrente. And certainly so. Now let me conclude today's Satnya Dhamma talk by wishing that all of you who have not yet gained Satnya this particular insight, may you soon get it, and so then may you gain much encouragement to go on with your practice, and those who have already gained it, may this serve as a good Satnya basis, or a good Satnya foundation, then swiftly progress Satnya through the remaining insight knowledges, and Satnya then, as the texts are saying, may you indeed gain the path of stream entry, hopefully during this very retreat here at Bianchi. Quindi il Venerabile augura a coloro che non hanno ancora raggiunto questo stadio, questo insight, di raggiungerlo, e che questo possa essere di grande incoraggiamento nella propria pratica, e per quelli che invece l'hanno già raggiunto, che questo sia una base per poter proseguire, raggiungere le rimanenti conoscenze dell'insight, e che questo possa, così come dicono i testi, permettere il raggiungimento almeno l'ingresso nel sentiero. Okay, that's it.